Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Francesco Casoli, arte e acciaio in cucina. Di Anna Marino. Io sto poco a casa, ma quando sono a casa il 50% sicuramente lo passo in cucina. Io sono uno abbastanza preciso e quindi mi piace anche la cucina, mi piace molto tenerla in ordine e avere tutti quanti gli attrezzi, la tecnologia, i coltelli, gli elettrodomestici, tutti quanti i vari ammennicoli che stanno intorno alla cucina, che sono sempre più, tra virgolette, divertenti, perché sono sempre più tecnologici, perché sono sempre più di design, perché sono sempre più belli da usare e anche da possedere. Ecco, questo mi piace molto, è una cosa che apprezzo molto. Ama una cucina, per così dire, di precisione, dove tutto è al suo posto e in ordine. Francesco Casoli, presidente del gruppo Elica, prima azienda al mondo nella produzione di cappe aspiranti. Fondata nel 1970 a Fabriano, Elica ha anche oltre il 30% della quota del mercato europeo. Con il proprio marchio, oltre che in Italia ed Europa, Elica è presente in Medio ed Estremo Oriente, Nord, Centro e Sud America. Le acquisizioni iniziate nel 2000 hanno portato il gruppo ad estendere la sua attività anche al settore dei motori elettrici e dell'elettronica. Ecco come è cominciato tutto nei ricordi di Francesco Casoli. Mio padre faceva il veterinario, quindi stiamo parlando proprio di una famiglia che parte da una storia completamente diversa. Lui curava gli animali e lo faceva con grande passione. Io ancora mi ricordo di contadini che mi fermavano, adesso non ci sono più, ma mi fermavano ringraziandomi del fatto che mio padre gli aveva salvato qualche animale della fattoria. E poi lui ha avuto una bella idea nel 72 di fondare l'Elica, quindi di creare un prodotto che non esisteva. Io ho la fortuna di avere la fotografia di mio padre che costruisce a casa il primo prototipo di cappa che poi ha generato l'azienda. A casa mia si respira impresa, io personalmente fin dall'inizio, è stata un po' una nascita, come se nascesse un altro fratello. La nascita di questa azienda, la nascita di questa idea imprenditoriale è nata proprio come quella di tante storie imprenditoriali italiane, con la passione, con la voglia di scoprire nuove cose, con la voglia di cercare di fare qualcosa che potesse trovare mercato. Poi chiaramente le cose sono cambiate, la cosa si è evoluta, però questo valore fondamentale ci è rimasto sempre. Penso che questo sia un po' la forza di aziende come la Elica. Noi siamo cresciuti, siamo in borsa adesso, abbiamo un socio americano molto importante che è la Whirlpool, che è presente all'interno del nostro capitale sociale, ma quella cosa, quello spirito iniziale è rimasto e io sono sicuro che rimarrà sempre. Nel 1978, ad appena 16 anni, alla morte del padre Ermanno, è entrato nell'azienda da lui fondata 8 anni prima. Dal 2000 l'attività dell'azienda di famiglia si è estesa al settore dei motori elettrici e lavorazione acciaio, dando vita al gruppo Elica, che oggi stipula contratti come fornitore esclusivo di cappe per cucina domestica con gruppi industriali internazionali. Ma un filo lega il passato con il presente. Nella nostra azienda io ho messo due cose, io lavoro qui da quando avevo 16 anni e ho cercato fin da subito di portare valori e comandamenti. Lei troverà sul nostro sito che ci sono sia i valori che i comandamenti, ma sui valori, e il primo valore che metto sempre e che qui in azienda mettiamo sempre, il primo valore è l'amore verso i clienti e verso un po' tutto quello che ci gira intorno, l'amore, non il rispetto. Amore e passione. Non dimentichiamo queste due componenti che sono quelle che hanno fatto grande l'Italia, non l'Elica, l'Italia. Anche in Europa, Elica è l'azienda in cui si lavora meglio. La società fabrianese è l'unica tutta italiana nella graduatoria delle 50 Best Large Workplace in Europe, stilata dal Great Place to Work Institute a livello europeo. Con Elica compaiono solo 3 sedi italiane di multinazionali. E il riconoscimento giunge per il secondo anno consecutivo. Nella classifica europea 2009, l'azienda figura al 29° posto, conquistando ben 10 posizioni rispetto all'anno scorso. Ecco perché. Noi cerchiamo di fare tante cose. Cerchiamo di stargli vicino, cerchiamo di, anche in momenti difficili come questi, noi non ci nascondiamo dietro un dito, noi abbiamo avuto un anno complesso come quello di tante altre aziende, abbiamo dovuto anche prendere delle decisioni difficili, Però noi sono quest'anno 3 anni che vinciamo il premio come miglior luogo di lavoro in Italia per le aziende italiane, cioè noi siamo la azienda classificata dai dipendenti, quindi non da un ente terzo, ma i dipendenti lo hanno fatto con un questionario interno che un ente che si chiama The Great Place to Work fa in giro per il mondo. Ecco, noi siamo l'azienda italiana dove si lavora meglio. Ma perché riesci a raggiungere questo risultato che a noi ci inorgoglisce di più di tutti gli altri premi che abbiamo ricevuto? E riesci a farlo se sei, secondo me, coerente con le cose che fai rispetto a quelle che dici. Noi, ripeto, abbiamo avuto un anno difficile, abbiamo dovuto prendere anche decisioni difficili, ci sono anche dipendenti che sono dovuti uscire perché chiaramente quando l'economia si fa difficile devi prenderle queste decisioni, ma lo abbiamo sempre fatto spiegando le cose a tutti, sia a quelli che uscivano sia a quelli che rimanevano. E penso che questa coerenza paghi, un posto secondo me speciale quando c'è il rispetto reciproco, punto. Poi il rispetto reciproco lo possiamo declinare in molti modi. Mandiamo tutti gli anni i figli dei dipendenti, chiaramente che vogliono, a studiare una settimana l'inglese in giro per il mondo. Lì paghiamo i libri di scuola, l'abbiamo fatto e continueremo a farlo, quindi cerchiamo di dare anche un aiuto economico, anche segnali importanti. Noi abbiamo sempre fatto una festa, una cena con tutti quanti i dipendenti, abbiamo sempre investito tanto in questo. Ecco, in un momento così difficile noi abbiamo deciso di non fare più questa cena e di dare i soldi divisi per i dipendenti con dei buoni acquisto che loro a Natale possono andare a usare dove vogliono. Io e il mio amministratore delegato ci mettiamo a disposizione di chiunque voglia venirci a parlare un giorno al mese e noi siamo lì ad aspettare che operai, impiegati, dirigenti, ma soprattutto operai, perché finora l'esperienza ci dice che chi ci viene a trovare sono sempre gli operai in maggioranza. E questa cosa qua ci sta dando chiaramente un sacco di risultati a livello proprio di comunicazione. Noi capiamo un sacco di cose, io e il mio amministratore delegato capiamo un sacco di cose che altrimenti difficilmente saremmo riusciti a capire. Poi dopo, alla fine, chiaramente siamo un'azienda, abbiamo delle regole, alla fine l'ultima riga del bilancio è quella che comanda molte delle nostre azioni, ma l'ultima riga del bilancio secondo me può essere raggiunta come risultato positivo, anzi deve essere raggiunta, e mantenendo ben dritta la barra dell'etica all'interno dell'azienda. Francesco Casoli ha un approccio particolare, che deriva anche dalla sua esperienza, proprio sul fronte del passaggio generazionale. Per esperienza, ma anche per esperienza personale, ma anche per tanti amici, tanti passaggi generazionali che ho visto in giro per l'Italia e non solo in Italia, ritengo che la ricetta sia una sola. C'è un momento in cui il padre, il genitore, quello che ha creato l'azienda, deve lasciare il timone al suo successore, sia esso il figlio, sia esso qualcun altro. E c'è un vecchio detto che dice: le azioni si ereditano, la leadership no. Quindi non deve essere matematico che sia il figlio, perché qui non stiamo parlando di aziende, stiamo parlando di cose molto complesse, stiamo parlando di cose dove ci vivono dentro decine, centinaia, a volte migliaia di persone, quindi uno non può per linea di sangue dire chi è il mio successore, sicuramente il mio figlio. Non è detto, se il figlio non è in grado non deve essere il successore, se il figlio è in grado ben venga, però l'importante è che ci sia questo passaggio generazionale, e per generazione appunto intendo sangue fresco, persone più giovani con idee più innovative, e questo deve avvenire, io ritengo, in maniera brutale. Deve avvenire dalla mattina alla sera. Vabbè, a me è avvenuto in maniera oltre che brutale anche in maniera triste, perché mio padre è morto, io avevo 16 anni e quindi sono diventato l'amministratore delegato in una notte. Però deve avvenire in maniera altrettanto veloce, secondo me, anche quando si decide di farlo a tavolino. Anzi, ci sono sempre un sacco di problemi quando si inizia questo lungo processo di inserimento della successione. Questo lungo processo non finisce mai, questo lungo processo diventa un qualcosa che sconcerta tutta quanta l'organizzazione, che non si capisce da dove parte e quando finisce. Questo lungo processo deve essere corto, deve essere breve, deve essere deve essere veloce come il battito delle ciglia. Io personalmente ho un amministratore delegato che è più giovane di me, e anche se io sono abbastanza giovane, che ha in mano le chiavi dell'azienda. Io faccio adesso un altro mestiere, mi sono messo a fare la politica con grande divertimento, devo dire, perché mi trovo molto bene, però indubbiamente ho dedicato e sto dedicando molto meno tempo all'azienda rispetto a prima, e quindi dobbiamo preparare noi le aziende affinché, anche se la vita dovesse essere un attimo, non ci siano problemi per mantenere il percorso aziendale. Particolare anche l'approccio di Francesco Casoli nell'affrontare il difficile equilibrio tra vita e lavoro, considerando anche i diversi incarichi di responsabilità. Da giugno 2006 è senatore della Repubblica Italiana, mandato che gli è stato rinnovato nelle elezioni del 2008. È vicepresidente del gruppo PDL al Senato, componente della 10ª Commissione Permanente Industria, Commercio e Turismo, della Commissione Bicamerale di Vigilanza RAI e della Commissione Bicamerale per la Semplificazione Legislativa. Tra il 2005 e il 2006 ha ricoperto la carica di presidente di Assindustria della provincia di Ancona. Semplici, non ho vissuto, nel senso che io da quando sono entrato per parecchi anni io ho solamente vissuto in azienda. Questa è un po' la parte, quello di cui abbiamo parlato prima era la parte positiva, poi c'è la parte negativa, e chi entra in azienda a 16 anni con quelle responsabilità, difficile che riesca ad avere una infanzia o una evoluzione abbastanza lineare, cioè poi io abito a Fabriano, paese di provincia, paese abbastanza tra virgolette isolato, e quindi la vita è stata molto dedicata all'azienda e basta. Io appunto non ho fatto l'università, non ho studiato, questo un po' mi è mancato, poi dopo alla fine lavoro e lavoro, alla fine le cose le impari, però indubbiamente forse qualcos'altro mi sarebbe servito. Poi a un certo punto invece ho deciso di prendere, questo è successo nel 90, un anno sabbatico, e ho salutato tutti quanti i miei dirigenti, che in quel momento erano circa una decina, e gli ho detto: cari amici, io parto, torno tra 16 mesi, e mi sono fatto un giro in barca a vela. Ho fatto 28.000 miglia, e perché pensavo che c'avevo bisogno di cambiare aria, e questa cosa qui è servita tantissimo. Ecco, anche lì ogni tanto ci vuole la forza per andare a cercare stimoli al di fuori. Se ci sediamo troppo sulla nostra scrivania tutti i giorni, poi alla fine vediamo solo la nostra scrivania, che è sempre la stessa. Dobbiamo ogni tanto alzarci e cambiare completamente aria, ma per farlo bisogna farlo veramente, cioè bisogna veramente cambiare aria, che non è fare una vacanza, ma è proprio cercare di capire modelli di vita diversi. È un equilibrio molto, molto, molto difficile. Io onestamente sotto questo punto di vista non mi sento uno che è riuscito a trovare poi facilmente né con grande soddisfazione questo equilibrio. L'azienda a me mi ha assorbito tantissimo, forse troppo. Questo passaggio tra il lavoro aziendale e questa esperienza politica non è che abbia facilitato le cose, anzi le ha un po' complicate, perché io praticamente adesso vivo 5 giorni a settimana a Roma e 2 giorni a settimana a Fabriano. Difficile conciliare queste cose con una serena vita privata. L'arte in azienda. Il presidente di Elica, Francesco Casoli, è un personaggio eclettico, un imprenditore illuminato che è stato anche in grado di introdurre in azienda delle contaminazioni, prima di tutto con l'arte. Francesco Casoli è anche fondatore e presidente della Fondazione Casoli. Ecco come è nata l'idea. All'inizio, 12 anni fa, è nata quasi per gioco. Io avevo intenzione di ricordare la memoria di mio padre con un qualcosa che lasciasse un segno, e siccome mio padre amava l'arte, era uno che dipingeva, quindi era una persona abbastanza estrosa, e abbiamo deciso di fondare un premio artistico dedicato a giovani talenti. E questa creatività può essere anche innaffiata, quindi può essere coltivata giorno per giorno grazie alle contaminazioni da parte degli artisti contemporanei che girano qua abbastanza frequentemente in azienda, con i nostri operai, impiegati, dirigenti che la vivono giorno per giorno. Questa cosa qua funziona, cioè con noi ha funzionato molto. Funziona chiaramente se lo fai con questo spirito, se lo fai credendo a queste cose, allora funziona.